ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi ceniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte, perché tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male. Perché quella tua amica il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP, e invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio sul collo fino a che il collo non si consumerà. Secondo me tu sei la numero uno, che mi diverto quando sono con te, che ci mettiamo un sacco di cose strane e poi facciamo quello che ci pare. E allora smettila di fare la mamma per essere vecchia, fare in tempo anche te. Prova a pensare quanto è bello star bene. Lasciate andare, vieni, scappa con me. Scappa con me. Facciamo quello che ci pare. E allora smettila di fare la mano.